La parola alla compagna Iotti, si prepari la compagna di Simone. Io seguo l'ordine. Secondo le buone regole. Compagni e compagne, io il mio intervento sarà un intervento che si limiterà ad avanzare alcune considerazioni. Su diversi punti del rapporto del compagno Zangari e degli interventi dei compagni. Devo dire prima di tutto che io condivido la preoccupazione che ha espresso qui questa mattina il compagno Michelangelo Russo, nel senso cioè che noi andiamo alle elezioni e le elezioni sono un fatto molto concreto. Aggiungo anche che noi andiamo alle elezioni amministrative in un insieme di comuni piccoli e grandi in cui solo in alcuni, l'alcuni ha una certa dimensione, noi abbiamo il governo della cosa pubblica, ma vi è un grande numero di comuni piccoli e medi in cui noi siamo all'opposizione. Io credo che questo noi non lo dobbiamo dimenticare e la mia preoccupazione parte soprattutto da due cose che ho sentito in tutto il Comitato Centrale nella giornata di ieri, ma anche nella giornata di oggi, e che io cercherò di esprimere. Il primo è quello che giustamente è stato definito ieri da un compagno del Friuli, insomma non dobbiamo presentarci col capo sparso di cenere, aggiungo io con le corde al collo, come il compagno Michelangelo Russo stamattina o adesso la compagna Zagatti, con questo senso di colpa perché in un comune del nostro paese, dove peraltro, e questo è un fatto che io credo non va sottovalutato, il sindaco di questa grande città, il compagno Novelli, è riconosciuto ancora oggi da tutta la stampa, al di sopra di ogni possibile sospetto, perché in un comune del nostro paese diretto dalle sinistre sono avvenuti fatti che avvengono comunemente in comuni non diretti dalle sinistre. Io credo che dobbiamo assolutamente liberarci da questo stato di fatto, anche perché questo ci ha portato, almeno ci porta, a considerare, come dire, come se dovessimo ripartire da zero e come se la costruzione delle nostre amministrazioni, la nostra battaglia, sia quando siamo maggioranza, sia quando siamo opposizione, non abbia portato alla soluzione, alla costruzione di fatti nuovi all'interno della vita delle città, che sono da un lato, l'ha ricordato molto bene il compagno Zangari nella sua relazione, la struttura dei servizi, o che sono, e l'ha ricordato ieri il compagno Salvani, io sono pienamente d'accordo con lui mentre polemizzava con un certo tipo di iniziative culturali, che sono il fatto di aver reso vive le città italiane, che non è un fatto secondario dal punto di vista e culturale e politico. Non partiamo da zero e io credo che noi dobbiamo andare a questa battaglia amministrativa con la consapevolezza e la coscienza del modo come abbiamo agito nel corso di tutti gli anni che sono dietro di noi, e quello è il volto delle città che noi abbiamo amministrato. Se noi perdessimo questo senso, io credo che noi veramente commetteremmo un errore gravissimo, e aggiungo subito che io sarei molto dubbiosa dei risultati effettivi in voti, come diceva il compagno Russo stamattina, di una campagna elettorale che fosse portata all'insegna di un'eccessiva autocritica e senza la coscienza di questo grande patrimonio politico e morale che noi abbiamo introdotto nel nostro paese. Ma c'è pure una seconda ragione. tu dici saresti dubbiosa, puoi fare a meno di avere dei... Beh, vabbè, appunto, quindi aggravi quanto io sto affermando. Il secondo motivo della mia preoccupazione è un altro, però è molto vicino a questo. Io credo che affrontando una campagna amministrativa noi non possiamo mai dimenticare che si tratta di una campagna amministrativa. E anche qui guai a noi se noi cadessimo su un piano puramente politico ed esaurissimo la Bosca Battaglia in un'accusa alla Democrazia Cristiana, che va da sé che ci deve essere, ma sul piano, anche questa, sul piano dell'azione concreta, perché noi abbiamo bisogno nel corso di questa campagna elettorale di dare corpo e forza alla, come dire, e significato politico al momento dell'amministrazione delle città e dei comuni, per fare di questo momento dell'amministrazione delle città e dei comuni una componente rilevantissima della politica generale del paese. Se noi spostassimo il nostro accento soltanto sulle questioni di natura politica, che poi sono molto spesso propagandistiche più che concrete, io credo che anche in questo caso noi commetteremmo un errore e non arriveremmo a ottenere i risultati che vogliamo. Io credo che dobbiamo partire dalle questioni concrete delle città, dei comuni, dei villaggi che noi amministriamo, nella quale siamo presenti come forza di opposizione, e partendo di lì per arrivare poi al discorso delle riforme necessarie sia sul piano locale sia a livello nazionale. Ma il centro del nostro discorso deve essere il discorso amministrativo. A me ha colpito, e passerò rapidissimamente a un altro argomento, a me ha colpito per esempio che la questione posta qui dal compagno Zangheri e che a mio avviso costituiva nel rapporto del compagno Zangheri un momento di estrema rilevanza, il problema cioè della finanza locale, intesa non più in un modo spezzettato ma in una visione globale che comprenda tutti i compiti del comune o della provincia o della regione, questo discorso è stato scarsamente dibattuto all'interno del Comitato Centrale e io faccio fatica a ricordare un intervento che sia entrato su questa questione, che a mio avviso invece è una delle questioni più rilevanti e che appunto partendo dalle questioni di natura concreta si collegano alla necessità delle riforme e del mutamento. Molti compagni nel corso del dibattito, in modo particolare i compagni di Roma, parlando delle vicende note, cioè di un attacco della magistratura, in modo particolare il compagno Vetere, hanno, tanto il compagno Vetere quanto gli altri compagni che sono intervenuti, identificato questo attacco della magistratura come un attacco della Democrazia Cristiana nei confronti dell'amministrazione di sinistra della capitale, e dicendo capitale dico tutto il significato che ha per la Democrazia Cristiana un'amministrazione di sinistra. Io devo dire che non sono, non che non c'entri la Democrazia Cristiana, ma mi pare che la questione dell'attacco della magistratura è assai più complesso e che riducendola a questa questione noi lo riduciamo con un semplicismo eccessivo ad una cosa che invece io credo noi dobbiamo comprendere fino in fondo, perché ha dentro di sé, a mio parere, una pericolosità di grande rilevanza. Noi non portiamo avanti in questo modo un'analisi che colga molti punti di quelli che sono stati all'atteggiamento della magistratura nel corso degli ultimissimi anni. Ora va da sé, non ho bisogno di dire una parola di più a questo proposito, che la magistratura è composta in grande maggioranza di magistrati valorosi e coraggiosi, pensiamo a tutti i magistrati che hanno condotto la lotta contro il terrorismo e ce ne rendiamo conto. Va da sé, non aggiungo neppure una parola, perché io sarei contrarissima a modificare la nostra posizione, che noi siamo, come dice la Costituzione, per l'indipendenza della magistratura e vogliamo che venga garantita l'indipendenza della magistratura. Però ci sono alcuni fatti che non possiamo dimenticare e voi mi consentirete di ricordarli. Un anno fa, e fu una cosa che ebbe poca eco all'esterno, per fortuna, dico io, la Corte dei Conti richiese agli organi costituzionali dello Stato, Camera, Senato, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, di controllare i propri bilanci. Naturalmente la risposta non poteva essere che una di aprire conflitto di competenza di fronte alla Corte Costituzionale, cosa che naturalmente il Presidente della Camera, del Senato e la Presidenza della Repubblica hanno immediatamente fatto. La risposta della Corte Costituzionale non poteva essere che una, e cioè che non vi può essere nessuno controllo della Corte dei Conti sui bilanci della Camera, del Senato, della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale. Non ci dimentichiamo che la Corte dei Conti, organismo di magistratura amministrativa, è l'organo di controllo del Parlamento, per cui da organo di controllo diventava il controllore di quello di cui invece dovrebbe, in nome del quale dovrebbe condurre il controllo nei confronti dell'esecutivo. Ma è un primo fatto. A mio avviso ce n'è un altro molto lontano che io non ricordo, che era di 5-6 anni fa, la famosa sentenza della Corte Costituzionale che consentiva alla Corte dei Conti di adire alla Corte Costituzionale, ma lasciamo da parte quell'episodio che è un po' lontano. Poi successivamente c'è stata la questione del Consiglio Superiore della Magistratura, fatto gravissimo. Lasciamo da parte adesso le ragioni, il caffè, il cappuccino e queste sciocchezze che sono venute fuori. Poi c'è stato l'attacco al sindaco di Roma, c'è stato l'attacco al sindaco di Milano. Compagno Libertini, su questo sono d'accordo con te, anche se non sono d'accordo sulle altre cose che hai detto. Io non parlo dell'intervento della magistratura nelle vicende del Comune di Torino, perché lì l'intervento della magistratura era un intervento più che legittimo, perché c'erano delle cose che bisognava vedere e colpire. Lì si trattava di fatti penali, di reati, non riguardà. Ma qui si trattava invece di altra cosa. E aggiungo anche un'altra questione, il protagonismo della magistratura. Per cui, e anche queste sono cose a cui si fa poca attenzione, ma un magistrato arriva a fare conferenze stampa quando ancora c'è la fase istruttoria di un certo procedimento, cosa assolutamente inammissibile. Allora, che cosa vuol dire? Cito soltanto questi fatti. Tutte queste cose indicano che ci sono in certi settori della magistratura, non solo, dico, non so se è un attacco della Democrazia Cristiana, di questo vorrò parlare un momento dopo, ma che c'è in carenza, perché questo poi è la ragione fondamentale, in carenza di una maggioranza capace di governare e di un governo solido, vi è da parte della magistratura l'assunzione a se stessa di un controllo nella vita generale della politica dello Stato italiano, che non ha niente a che fare con l'indipendenza della magistratura e che invece ingerenza in settori che devono essere gelosamente riservati alle assemblee elettive e al controllo delle assemblee elettive. Ora, io ho voluto sottolineare questo fatto perché a mio avviso in sé è estremamente grave. Noi dobbiamo stare con gli occhi aperti e suggerire, e io sento che qui c'è un tema di iniziativa politica istituzionale, e suggerire quelle riforme non che vincolino la magistratura all'esecutivo, che sono proposte che io credo dobbiamo respingere con tutta la nostra forza, ma di cercare di dare attraverso poteri al Consiglio Superiore della Magistratura, cioè all'organo di autogoverno, la possibilità di intervenire per impedire che avvengano questi fatti. Perché io ritengo che lo Stato italiano, secondo la Costituzione italiana, tutto è, meno che uno Stato governato dai magistrati. Io avrei paura di uno Stato governato dai magistrati. Lo Stato italiano deve essere governato dalle assemblee elettive espresse dal popolo, perché nel popolo sta la sovranità del nostro Paese, e attraverso queste assemblee elettive, attraverso gli organi come il governo e tutto il resto che queste assemblee esprimono. Allora dico, di fronte alla gravità di questo problema, noi possiamo dire è un attacco della democrazia cristiana. Certo, all'interno c'è anche una parte della democrazia cristiana, ma mi pare che il problema vada assai al di là e debba essere affrontato da noi con molta cautela, ma anche con molto rigore. Perché qui si tratta delle cose fondamentali dello Stato, e guai a noi se dovessimo lasciarle passare. Infine, mi avvio all'ultima parte del mio intervento, infine io vorrei dire due questioni sugli interventi che hanno fatto ieri il compagno Novelli e il compagno Libertini. E mi scusi il compagno Novelli se è presente, anche per la grandissima stima che non c'è bisogno neppure di dire da questa tribuna, perché penso che tutti noi abbiamo nei confronti del compagno Novelli una grandissima stima e ammirazione. Ma io devo dire con altrettanta franchezza, con la stessa franchezza da lui usata, che io non ho capito l'intervento del compagno Novelli, se non come forse era un momento di far partecipare il Comitato Centrale a uno stato di angoscia molto profonda che egli ha vissuto, e io lo comprendo molto bene che cosa deve essere significato aver vissuto le vicende di Terino. Però devo anche altrettanto dire che il significato politico del suo intervento io non l'ho inteso. E non ho inteso soprattutto, appunto, mi si perdoni la franchezza, quando il compagno Novelli ha tirato fuori la questione della linea politica del partito, dei passaggi tormentosi, è vero, tormentosi, attraverso le quali esse è passata, la solidarietà nazionale e poi l'alternativa democratica. Io devo dire, tormentosi non potevano non essere, perché il passaggio politico è estremamente difficile. E non è semplice riuscire a trovare questa strada, ma la cosa che mi ha stupito non è tanto perché abbia detto l'espressione tormentosa, perché tormentosi sono stati per tutti noi, direi per tutti i compagni, quanto a me hanno posto una domanda: che significava questo discorso in rapporto alle vicende di Torino? Come poteva entrarci il divenire anche faticoso della linea del partito con le ultime vicende torinesi? E aggiungo una cosa, perché vorrei capire, ed è solo questo spirito che mi spinge a porre questa questione, che cosa significa io voglio garanzie. Cosa vuol dire? Garanzie che non succede niente quando si è alla testa di organi di governo pubblico? Ebbene no, allora sarebbe un'illusione, perché noi chiediamo l'impossibile, perché quando si dirige la cosa pubblica, e chi parla certamente non è esente da queste esperienze, bisogna portare sulle spalle la gloria, lasciatemi usare un'espressione che forse è esagerata, ma anche la croce, quando arriva la croce. E guai a noi se non sappiamo portare e l'una e l'altra, allora che garanzia vogliamo? Nessuno di noi, dal segretario del partito all'ultimo comunista, può avere garanzia che nel suo lavoro tutto è garantito e tutto va avanti, per usare una frase che usava sempre Togliatti, col tran tran, perché il tran tran non esiste, nella storia non esiste mai, nella storia anche nella cronaca non esiste mai. Allora io credo che questo è un punto molto importante, altrimenti succederebbe, come giustamente il compagno Fassino ricordava parlando di un compagno operaio, allora siamo all'opposizione, cioè arrocchiamoci, e allora siamo sicuri di tutto, allora abbiamo tutte le garanzie, ma un'opposizione che non sia, come abbiamo sempre detto, opposizione e governo, ma che sia lì, arroccata in cima a un castello e dall'alto di questo castello, per quanto prestigioso, diciamo il nostro parere su quello che succede nel nostro paese, ma su quello io credo, seguendo questa strada, non sarebbe certamente una strada che ci porterebbe lontano. Devo dire che non sono neppure d'accordo con quanto ha detto il compagno Libertini. Il compagno Libertini, sono alcuni comitati centrali che ogni tanto ci fa degli interventi, mi consenta l'espressione un po' da profeta, ma se mi consente un po' da profeta di sciagure, e alla fine viene sempre fuori che se non si segue quello che lui dice, per noi succederanno chissà quali sciagure. Io non credo che questo sia un modo giusto, anche perché nel modo come si è espresso finiva per ridurre quel po' di roba che è stato l'accordo governo, sindacati, Confindustria, in un momento non delle vacche grasse ma delle vacche magre, e questo dà valore a quell'accordo, lo riduceva a una piccola cosa, per cui noi abbiamo modificato il nostro atteggiamento su un decreto che conteneva una parte di quell'accordo. A parte il valore di quell'accordo, ma il compagno Libertini se l'è letto quel decreto alla fine rispetto a quello che era all'inizio, perché nessuno l'avrebbe riconosciuto più, e anche questo di fare politica, cioè di cambiare le cose, di migliorarle, deve pure contare qualche cosa, o altrimenti anche qui stiamo in alto alla fortezza, ma la gente sta giù e vive le vicende giorno per giorno, e se noi non sappiamo vivere con la gente il bene e il male, ebbene noi non riusciremo a trovare una breccia nel cuore e nella coscienza della gente. E la ragione per cui siamo andati avanti è perché abbiamo vissuto giorno per giorno le vicende della gente. Ma aggiungo anche un'altra cosa e con questo chiudo davvero. Quando il compagno Libertini dice non dobbiamo fare passare, che vuol dire? L'ha già posto il compagno Napolitano ieri. Che vuol dire? Perché, cari compagni, qui dobbiamo fare chiarezza su un punto. Noi abbiamo vissuto nelle settimane scorse, se mi consente il compagno Zangheri, io vorrei fare un appunto alla sua relazione, che peraltro ho apprezzato, e cioè che delle vicende della legge finanziaria e del bilancio, non per le sue questioni interne che capisco non possono interessare i compagni, ma per il valore politico, il significato politico che esso ha avuto, noi non abbiamo registrato neanche una parola nella relazione al Comitato Centrale. Ma al di là della critica, noi siamo usciti da una vicenda difficilissima. Ebbene, per mia esperienza personale, non credo soltanto mia, ma di tutti i compagni dirigenti che l'hanno vissuta più da vicino, io credo, cari compagni, che noi dobbiamo porci con molta serietà questa questione, e infatti le proposte avanzate dal gruppo si muovono tutte in questo senso. L'ostruzionismo, che è cosa sacrosanta nei momenti drammatici della storia, dico della storia di un paese, quando viene usato sistematicamente o dall'uno o dall'altro, distrugge le assemblee elettive. In qualche modo, mi dispiace dirlo, ma quello che è avvenuto nel corso di questa legislatura, non per merito ma per colpa del Partito Radicale, è una delle cause, non dico la sola, ma una delle cause che ha allontanato il Parlamento dai problemi del Paese e ha permesso e ha favorito il fatto che nel Paese i grandi problemi dell'economia, e parlo solo di quelli per non dire degli altri, vengono, dico a favorito e non è la sola cosa, vengono risolti al di fuori del Parlamento. Se noi vorremo un giorno buttare a mare le assemblee elettive, quel giorno un gruppo di 200 deputati e di 100 senatori faccia l'ostruzionismo e di assemblee elettive in Italia non se ne parlerà più. Per questo si pone con grande urgenza, sono d'accordo col compagno Napolitano e questo è un discorso che dovremmo fare anche più profondamente, il problema di un esame della nostra opposizione in modo che attraverso le forme della nostra opposizione noi possiamo riuscire a superare questa fase che è una fase certamente drammatica. Anche perché, cari compagni, non dobbiamo mai dimenticare che nel corso di questi 40 anni l'Italia ha dato vita a un Parlamento e attraverso di esso a una forma di partecipazione popolare e di democrazia che è unica in Europa. Se perdessimo questo punto, io credo che perderemmo qualche cosa di estremamente importante nella costruzione di quella terza via in cui tutti crediamo. La parola alla